Perfetto Giorno di Simone Spezia. È in corso il vertice tra ministri ad Amsterdam e paesi europei divisi sull'eventuale stop a Schengen. La Germania alla Grecia sui migranti faccia i compiti. Arrestato un cittadino marocchino a Cosenza, secondo gli investigatori sarebbe vicino all'ISIS e sarebbe stato pronto a partire per la Siria. Oggi inizia la visita del presidente iraniano in Italia, in gioco accordi commerciali per 17 miliardi. In corso in questo momento l'incontro con Mattarella. Ritratto nelle foto, ritenuto parte della cosiddetta banda dell'Audi gialla in fuga da giorni, si presenta in questura a Torino. Non c'entro niente, dice. Protesta all'Ilva di Genova, gli operai occupano lo stabilimento e bloccano una strada. Prevaricazioni in assemblea, denuncia la FIM che accusa la CGIL. Calcio, un nuovo caso, il romanista De Rossi allo juventino Mandzukic. Stai muto, zingaro di merda, in campionato intanto è corsa a due. Una buona giornata da Simone Spezia, bentornati ad Effetto Giorno, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. I nostri contatti in apertura, effettogiorno@radio24.it per scriverci, il 349-238-6666. Tanto per gli sms quanto per i messaggi su WhatsApp. In apertura dunque il vertice ad Amsterdam tra i ministri europei, nel quale verrà affrontato e viene affrontato in queste ore anche il tema di una possibile sospensione del trattato di Schengen, quello che consente, lo ricordiamo, la libera circolazione delle persone all'interno del territorio europeo. Per un punto ci colleghiamo con Alessandra Schepisi. Alessandra. Sì, buongiorno. L'emergenza profughi con i conseguenti problemi per la tenuta di Schengen al centro di questo consiglio informale, durante il quale, lo ricordiamo, non verranno prese decisioni concrete, ma è un vertice comunque importante perché serve a indicare la rotta su questi temi. Si cerca faticosamente un punto di mediazione. Ci sono paesi come Svezia, Danimarca, Austria, Polonia, Ungheria che hanno già introdotto controlli alle frontiere, che vorrebbero sospendere Schengen per 2 anni o addirittura revocarlo, paesi che sarebbero favorevoli anche all'ipotesi di isolare la Grecia dal sistema di libera circolazione, paesi invece come Italia e Germania che vorrebbero salvare quello che è un pilastro dell'integrazione europea. L'Europa si trova davanti ad un bivio decisivo, ha detto il ministro dell'Interno Alfano. Sentiamo. Bisogna rafforzare i controlli e rendere veramente sicuri i controlli alla frontiera esterna dell'Unione Europea. Facendo questo salveremo il diritto di circolazione libera all'interno, che sarà appunto una circolazione non solo libera ma anche sicura. Siamo dell'idea che l'Europa debba rimanere ad assetto stabile, che non ci possano essere pezzetti di Europa dentro e pezzetti di Europa fuori, perché sarebbe l'inizio dello sgretolamento. Vogliamo mantenere Schengen, dice la Germania, ma vogliamo che la Grecia faccia i suoi compiti e il tempo stringe, mentre dal commissario all'immigrazione Avramopoulos l'appello a fare di tutto per salvaguardare la più grande conquista dell'integrazione europea. Ricordiamo che all'ordine del giorno c'è in particolare la proposta della Commissione di creare un corpo europeo di guardie di frontiera con cui gestire flussi migratori in arrivo dal Mediterraneo e anche l'ipotesi di modifica del regolamento dell'accordo di Dublino che obbliga i richiedenti asilo a registrarsi nel paese di primo ingresso con l'obiettivo di una redistribuzione più equa all'interno dell'Unione Europea. Conferenza stampa al termine del Consiglio dei Ministri prevista nel pomeriggio. E con questo è tutto. Grazie Alessandra Schepisi per questo aggiornamento. Il ministro dell'Interno Angelino Alfano, tra l'altro, è intervenuto anche per commentare l'arresto di questa mattina. È stato arrestato un cittadino marocchino indagato per addestramento ad attività con finalità di terrorismo. Dice Alfano, è stata dimostrata l'efficacia delle nuove norme. Per i dettagli su questo arresto ci colleghiamo con Cosenza e con Francesco Straticò, perché è là che è avvenuto l'arresto. Francesco, buongiorno. Grazie, buongiorno a te. Lui ha negato ogni addebito, ma gli inquirenti sono certi che Mehdi Amin abbia avuto contatti importanti con elementi legati al terrorismo islamico. Il marocchino di 25 anni è stato arrestato all'alba di oggi a Luzzi, a pochi chilometri da Cosenza, dove abita con la sua famiglia, che sarebbe del tutto all'oscuro delle sue attività. Ad Amin, che non aveva armi, sono stati sequestrati alcuni cellulari, adesso è l'esame della polizia scientifica. Ben prima degli attentati in Francia avrebbe espresso il desiderio di partire per il Belgio, hanno riferito gli inquirenti nella conferenza stampa appena terminata. Il suo arresto è la prima applicazione della nuova legislazione antiterrorismo. La linea può tornare allo studio dopo aver ascoltato Claudio Galzerano della divisione antiterrorismo internazionale della polizia, che sottolinea l'importanza della cooperazione. La cooperazione internazionale è la risposta al terrorismo internazionale. Data la orizzontalità e trasversalità di un fenomeno, non si può rispondere con le parcellizzazioni, con le differenziazioni. Bisogna che tutti quanti cooperino e si schierino dalla stessa parte. E grazie dunque a Francesco Stratico da Cosenza per questo aggiornamento. Il tutto si intreccia, sia la questione dei migranti che quella del terrorismo, anche con quel che accade in Libia, dove oggi il Parlamento dovrebbe iniziare a votare sul governo di unità nazionale e dove i paesi europei ragionano su possibili iniziative militari. Il servizio. La preoccupazione per la minaccia dell'ISIS in Libia passa dal primo test per il governo di unità nazionale nato dalla mediazione ONU da oggi al vaglio dello stile Parlamento di Tobruk. L'Assemblea deve pronunciarsi entro il 29 gennaio, sia che il governo nasca chiedendo al mondo un sostegno contro i jihadisti, sia che l'esecutivo naufraghi creando una nuova Somalia. Sembra ormai certo l'intervento militare messo a punto da Stati Uniti, Francia, Regno Unito e Italia. Anche il nostro paese, secondo indiscrezioni, sarebbe pronto ai raid. Smentita dalla difesa la presenza di militari italiani sul territorio, mentre il ministro degli esteri, Paolo Gentiloni, ha ribadito la posizione italiana è quella di attendere che sia il governo locale a chiedere il sostegno della comunità internazionale. Ma anche in assenza di un accordo, l'Italia ha il diritto e il dovere di difendersi e valutare come farlo. L'attenzione di Roma su quanto avviene nell'ex paese di Gheddafi è altissima. Dall'Algeria è arrivato l'allarme sul flusso di giovani marocchini pronti ad entrare in Libia per unirsi ai terroristi. E sullo sfondo c'è la minaccia contenuta nel nuovo video diffuso dal Califfato che annuncia nuovi attentati, Londra in testa. Maria Luisa Pezzali, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E c'è un altro paese verso il quale l'Italia nutre ovviamente grandi interessi economici e commerciali, si tratta dell'Iran. Oggi la visita del presidente iraniano in Italia, tra l'altro piuttosto lunga, rimarrà a Roma un paio di giorni e mezzo, è una visita importante, tra l'altro la prima in Europa dalla fine delle sanzioni. Vincenzo Miglietta, buongiorno. Sì, buongiorno, è così una visita di quasi tre giorni a Roma, quella del presidente iraniano, visita che era in programma già a novembre dello scorso anno, per esattezza il 14, ma che fu rimandata a causa degli attentati proprio il giorno prima a Parigi. Rouhani infatti anche questa volta dopo Roma sarà in Francia. Il presidente iraniano guida una delegazione di 6 ministri e 120 tra imprenditori e dirigenti di aziende pubbliche. Alle 12 Rouhani è stato ricevuto al Quirinale dal presidente della Repubblica Mattarella. Alle 19 in programma l'incontro con il presidente del Consiglio Renzi in Campidoglio. Si parlerà inevitabilmente dei dossier del Medio Oriente, ma anche di Libia e soprattutto di Siria domani. Quindi in agenda tra l'altro gli incontri con i presidenti del Senato e della Camera, mentre alle 11 è prevista la visita in Vaticano a Papa Francesco. Rouhani di primo mattina vedrà anche i vertici di Confindustria, il presidente Squinzi. In ballo ci sono per l'Italia accordi per almeno 17 miliardi, le intese riguarderebbero tra gli altri la Saipem, con la quale è atteso un contratto da 5 miliardi, ed ancora Danieli, impianti siderurgici, condotte, infrastrutture idriche, e poi Eni, Enel, Finmeccanica e Ferrovie. E per momento è tutto, linea allo studio. E grazie Vincenzo Miglietta per questo aggiornamento di Iran e dei nostri rapporti con l'Iran. Torneremo a parlare più avanti, lo faremo con Alberto Negri, inviato del Sole 24 Ore, che tra l'altro oggi firma un pezzo molto interessante proprio sul Sole 24 Ore, tracciando anche un ritratto del presidente iraniano che oggi arriva in Italia. Vedremo di capire che cosa possiamo aspettarci da questa tre giorni. Veniamo alla politica italiana adesso, con l'inevitabile dibattito sulle unioni civili che prosegue all'indomani delle manifestazioni a favore del cosiddetto DDL Cirinna. Oggi dovrebbero parlare i vescovi. In un clima di forte contrapposizione, il DDL Cirinna si prepara all'approdo a Palazzo Madama giovedì. La legge sulle unioni civili arriverà in aula senza relatore, segno delle difficoltà già incontrate dal provvedimento. È soprattutto il tema della stepchild adoption, cioè l'adozione del figlio del partner, a dividere in modo trasversale schieramenti politici e partiti. Nella maggioranza si cerca un'ultima mediazione per superare il no dei centristi e le perplessità dei cattolici del PD. Limature del testo sono possibili, ma no a stravolgimenti, dice stamattina il presidente dei Democratici Orfini, che invita anche a rinunciare al voto segreto. Dopo le manifestazioni delle associazioni gay che sabato hanno riempito 100 piazze per sostenere la legge, a far discutere in queste ore è anche il sì alle adozioni per le coppie gay arrivato dalla presidente della Camera Boldrini, un intervento contestato da Forza Italia e Lega, ma anche dal nuovo centrodestra, i cui ministri, pur condividendone le motivazioni, fanno sapere che non parteciperanno al Family Day organizzato sabato a Roma dalle associazioni del mondo cattolico contrarie alla legge Cirinnà. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Ci sono un po' di dati economici che sono stati diffusi questa mattina. Il primo riguarda il fatturato dell'industria, che diminuisce dell'1,1% in novembre rispetto ad ottobre, con identiche variazioni sul mercato interno e su quello estero. E questo è quello che rileva l'Istat. Rispetto a novembre 2014 invece c'è un aumento dello 0,8%, un più 2,2% al netto dell'energia. Ci sono i dati sul commercio. A novembre 2015 le vendite al dettaglio sono aumentate dello 0,3% in valore rispetto ad ottobre. Rispetto a novembre dell'anno scorso c'è un calo dello 0,1%. Infine, i dati sul commercio estero: a dicembre 2015 le esportazioni verso i paesi extraeuropei aumentano dello 0,9% rispetto a novembre, le importazioni calano del 2,9%, l'avanzo commerciale, ossia il surplus, tocca i 5,9 miliardi, il livello più alto dal gennaio del 1993. Torniamo a parlare adesso di assenteismo, in questo caso al comune di Pachino, dove timbravano il cartellino e poi uscivano per fare shopping e passeggiate oppure addirittura andare a caccia. Antonio Spampinato, colonnello della Guardia di Finanza di Avellino, che ha messo a segno l'operazione, al microfono di Edoardo Sirignano. Finanzieri della tenenza di Noto hanno attivato delle indagini tecniche, hanno consentito con delle immagini di acclarare questo fenomeno, con gli esiti che sono stati partecipati, che 7 dipendenti su 12 appunto gli è stato notificato il reato di truffa aggravata ai danni dell'ente pubblico. Dei 7 dipendenti abbiamo un dirigente e 6 funzionari. Qualcuno è arrivato fino a una percentuale di assenza di 82 ore tra quello che doveva corrispondere e le assenze non giustificate. Le istituzioni hanno collaborato a far venire fuori la verità. Per poter affermare questi dati significa che i documenti acquisiti ci sono stati messi a disposizione, altrimenti il lavoro di riscontro diventa un lavoro impossibile. Andiamo a Genova, all'Ilva, dove questa mattina c'è stata l'occupazione della fabbrica. Fabbrica occupata e corteo per le strade della delegazione di Cornigliano, dei dipendenti Ilva della FIOM di Genova. Hanno varcato i cancelli tra i cori l'accordo di programma non si tocca con i mezzi da lavoro al seguito, dopo che l'assemblea dei lavoratori dell'Ilva, convocata questa mattina da FIOM e FALMS, ha deciso l'occupazione della fabbrica per alzata di mano. Blocco stradale nei pressi della stazione di Cornigliano e strada chiusa al traffico. Spiega le ragioni Bruno Manganaro, segretario generale FIOM genovese, presente alla manifestazione insieme ad altri 400 lavoratori. Noi diciamo che il governo sta facendo una procedura di vendita senza regole, lasciando tutto nelle mani dei privati e decidere il futuro degli stabilimenti. Chiediamo al governo un incontro, il governo nei fatti ce lo nega. Ma metà dei lavoratori è al lavoro e alla manifestazione non sono presenti tutte le sigle sindacali, come spiega Marco Bentivogli, segretario generale FIM CISL. È stata organizzata solo dalla FIOM CGL, FIM e WILM non hanno aderito a queste iniziative e questa mattina ci sono stati episodi piuttosto gravi di intimidazione. In assemblea non è stato consentito a chi aveva opinioni diverse di parlare. Ci sembra che il problema sia ancora più grave, sia quello del futuro dell'Ilva e non se sì o no ci sarà ancora l'accordo di programma. Anna Marino, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Un breve aggiornamento per quanto riguarda i mercati, poi alle 13.30 come sempre torneremo a parlarne con i colleghi di Radio Cori, Il Sole 24 Ore, perché la giornata si era aperta abbastanza bene. Adesso gli indici sono negativi, in particolare Milano che cede quasi un punto percentuale sul FTSE MIB e lo 0,69 sul FTSE All Share, mentre le altre borse europee sono vicine alla parità. A pesare su tutto questo ancora una volta l'andamento dei titoli bancari: Banco Popolare cede il 4,4%, la Popolare di Milano il 4,16%, Unicredit il 4,16%, 4,01, UbiBanca il 3,97%. E a proposito di banche, parliamo ancora delle quattro che sono state salvate dal governo con il decreto del 23 novembre scorso. Questa mattina Roberto Nicastro, che è presidente di queste quattro banche, delle cosiddette good bank, ossia quelle che sono risultate, diciamo, scorporando la parte, per così dire, negativa appunto delle banche, è intervenuto ospite di Cuore Denari. Ha parlato dei prossimi passaggi per quanto riguarda la cessione di queste quattro banche. Sentiamo. Ma guardi, allora, appunto, la scadenza è quella delle 18 e quindi sapremo noi stessi dopo quell'orario che cosa sarà arrivato. Quello che ci aspettiamo è che gli interessi arrivino sia dall'estero che dall'Italia, che gli interessi possano arrivare sia da banche che da operatori di private equity. Peraltro è la primissima fase, il primissimo passaggio. Oggi l'interesse, diciamo, è semplicemente un interesse a ricevere, diciamo così, la brochure delle quattro banche, no? In gergo si chiama il teaser, no? Però si capiranno poi, diciamo, quanto significativi sono gli interessi nelle fasi successive. È proprio, come dire, il primo stadio abbastanza in linea con quelli che sono tipicamente queste procedure, che devono essere molto trasparenti, che devono essere il più competitive possibili, perché di fatto stiamo parlando di banche che oggi sostanzialmente sono a capitale pubblico. Siamo al post fine settimana di campionato e tra un attimo, Carlo Genta, ciao innanzitutto. Ciao Simone, ciao a tutti. Andremo a parlare anche della parte sportiva, ma iniziamo però dal nuovo caso, insomma, no? Dopo la vicenda di Sarri ne abbiamo un'altra, in questo caso è De Rossi. Senza soluzione di continuità, sì, insomma. Non ne usciremo mai. Siamo usciti da Froce e Finocchi e siamo entrati in insulti di campo, ma a sfondo razziale, con De Rossi che nel posticipo di ieri sera Juventus-Roma si è beccato con Mandzukic, il quale si è beccato da De Rossi un pesante insulto: stai muto, zingaro di merda, in riferimento alle sue origini bosniache. Cosa vuoi che ti dica? È un altro episodio che si aggiunge a questa saga. Sappiamo che molto spesso questi episodi si verificano in maniera seriale. La settimana difficile passata e tutte le parole spese su Sarri, evidentemente, a loro signori non hanno insegnato nulla, e Spalletti in tutta risposta ha detto: vai, insegnerò a De Rossi a parlare con la mano davanti alla bocca. Quell'altro non è una grandissima risposta, tutto sommato. Non si poteva fare meglio. Si poteva fare meglio, decisamente. Vedremo cosa farà la giustizia sportiva da questo punto di vista. Invece, come già ci dicevamo prima di questo fine settimana di campionato, insomma, abbiamo avuto la conferma che è una corsa a due, no? Sì, il disegno che già era stato tracciato nello scorso weekend di campionato diventa sempre più nitido e più chiaro. Cioè, ci sono Napoli e Juventus che sono ormai chiaramente in fuga, hanno vinto entrambe ieri in modo diverso, il Napoli 4-2 a Genova con la Sampdoria e la Juventus nel posticipo sull'onda del nuovo piccolo mostro Pablo Dybala, che ha fatto un altro gol meraviglioso contro la Roma, appunto. La Fiorentina si è ripresa, ha agganciato l'Inter al terzo posto, ma ormai Napoli 47, Juventus 45, Fiorentina e Inter 41. Insomma, siamo abituati a dei ribaltamenti di fronte di scenari improvvisi in questo campionato, ma attualmente il disegno è questo. Cioè, c'è una coppia che va verso lo scudetto, è quella azzurra, bianca e nera, e gli altri che inseguono, l'Inter in questo momento al centro, e soprattutto Mancini al centro del mirino delle critiche, dopo le ultime pessime prestazioni, compresa quella di ieri 1-1 in casa col Carpi. Grazie Carlo, tutto materiale per tutti i convocati a partire dalle 14. Noi adesso andiamo a sentire che cosa succede sulle strade e poi ci ritroviamo. Come già detto, torneremo a parlare di Iran e dei nostri rapporti con l'Iran nel giorno nel quale inizia la visita appunto del presidente iraniano in Italia. E poi c'è una cosa che sta passando un po' sotto traccia in queste ore, ed è molto semplicemente il fatto che non piove. Questo genera nel nord Italia il solito problema, ossia lo smog, oltre che i livelli idrografici di alcuni fiumi che sono molto, molto bassi, ma in zone come quella della Sardegna anche dei problemi proprio di approvvigionamento d'acqua. Tra poco. Effetto giorno. Effetto giorno, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo, i nostri titoli, le notizie principali, con una appena battuta dalle agenzie, sono le dichiarazioni di Rob Wainwright, che è il direttore di Europol, che dice l'ISIS sta programmando attacchi su larga scala in Europa. Tutto questo l'ha detto Wainwright in una conferenza stampa nell'ambito della riunione dei ministri dell'interno europei che si sta svolgendo ad Amsterdam, nella quale sta andando in scena in questi minuti uno scontro abbastanza forte tra Germania e Grecia. Berlino dice Atene faccia i compiti sui migranti e la Grecia risponde basta con questo ingiusto gioco di accuse. È stato arrestato intanto un cittadino marocchino a Cosenza, secondo gli investigatori sarebbe vicino all'ISIS e sarebbe pronto a partire per la Siria. Oggi inizia la visita del presidente iraniano in Italia, in gioco ci sono accordi commerciali per 17 miliardi, torneremo a parlarne tra un attimo. Ritratto nelle foto, ritenuto parte della cosiddetta banda dell'Audi gialla, si presenta in questura a Torino e dice non c'entro niente. La protesta all'Ilva di Genova, gli operai hanno occupato lo stabilimento e bloccato una strada. E veniamo dunque, prima ancora di tornare a parlare di Iran, a parlare di quello che si diceva, insomma il problema della siccità che sta colpendo anche il nord Italia. A Milano è il quinto giorno consecutivo nel quale si sforano i limiti di PM10, un po' la stessa situazione che si era verificata a dicembre, per il momento non ancora così grave, ma in Sardegna i problemi si fanno un po' più forti. Roberto Silvano, direttore del bacino idrografico della regione Sardegna, buongiorno e benvenuto. Buongiorno a voi. Da quel che abbiamo capito si rischia un po' quello che si vide nel 2003 quando ci fu una situazione simile. Sì, la situazione dal punto di vista quantitativo è del tutto analoga, cioè i bacini della Sardegna che sono circa 30 e che servono tutti gli usi, cioè la Sardegna c'ha questa caratteristica che il suo approvvigionamento idrico dipende dai serbatoi artificiali, sia per l'uso potabile che per l'uso irriguo che per l'uso industriale. Ecco, sono grosso modo al 56% della loro capacità, un valore così basso non si registrava dal 2003. È arrivato, è scattato un allarme, una preallerta arancione, ci dice che cosa vuol dire, Silvano? Sì, noi abbiamo un sistema di indicatori di monitoraggio della siccità, tra l'altro inserito, nel senso previsto dal piano di gestione del distretto idrografico, già pubblicato nel 2009 ai sensi della direttiva comunitaria quadro sull'acqua del 2000, la 2000/60. Questo sistema di indicatori, che quindi funziona già da quasi 10 anni ormai, sì, ci segnala lo stato di criticità degli invasi con 4 livelli. Tra 0,5 e 1 siamo in situazioni ordinarie, tra 0,3 e 0,5 siamo in situazione di preallerta, tra 0,15 e 0,3 siamo in allerta e sotto i 0,15 siamo in emergenza. Oggi il sistema è in fase di preallerta, diciamo. È in fase di preallerta. E se non piovesse, quanto ci si metterà ad arrivare a una situazione di allerta? Saranno fondamentali i prossimi mesi, perché come lei può capire, la stagione primaverile è quella che può far recuperare la situazione o addirittura farla precipitare. Che le scorte rimangono grosso modo invariate. Oggi siamo in equilibrio, non stiamo consumando, per fortuna, cosa per esempio che è successa a dicembre. A dicembre abbiamo consumato paradossalmente, cioè un mese di precipitazioni anche elevate, anzi il mese con precipitazioni più elevate di tutto l'anno in media, invece abbiamo consumato dalle riserve. Ecco, se queste riserve non dovessero risalire, allora non abbiamo enormi problemi dal punto di vista per gli usi civili, nel senso che al massimo dovremmo evitare a un uso oculato della risorsa, tranne in qualche specifico caso molto limitato. Ma potrebbe essere messa a rischio l'irrigazione per alcuni distretti del nord Sardegna, che è evidentemente un discreto problema. La ringrazio intanto, Roberto Silvano, direttore del bacino idrografico della regione Sardegna, col quale eventualmente torneremo a parlare nelle prossime settimane, nei prossimi mesi, per vedere come vanno le cose. Saluto intanto Alberto Negri, inviato del Sole 24 Ore. Alberto, buongiorno e benvenuto. Buongiorno a voi. Oggi firmi un bel pezzo sul Sole 24 Ore in edicola, del quale vogliamo parlare, non del pezzo ma ovviamente del contenuto, nel quale tratteggi la figura del presidente iraniano che arriva oggi in Italia e del perché è così importante questa visita in Italia. Alberto, ci dai un quadro di chi è innanzitutto? Beh, Hassan Rouhani è uno dei rivoluzionari della prima ora dell'Iran, era in esilio con l'imam Khomeini nel 1978 in Francia, tornò con lui per fare la rivoluzione, era stato abbattuto il regime dello Shah e poi ha fatto una carriera importante dentro le gerarchie fino a occuparsi addirittura del Ministero della Difesa durante gli anni Ottanta, quando c'era la guerra Iran-Iraq, per poi diventare un responsabile del Consiglio della Sicurezza Nazionale. Negoziò già nel 2003 la questione del nucleare iraniano, che poi è arrivata a quell'accordo che ha quindi portato alla fine delle sanzioni. È un conservatore moderato, religioso naturalmente, ha fatto i suoi studi a Qom, ma attenzione, è un uomo molto pragmatico. L'Iran è un paese in guerra, ma è venuto qui, in Europa e in Italia, per fare affari. Ecco, veniamo proprio agli affari. Innanzitutto mi sembra importante che il primo paese visitato in Europa sia esattamente l'Italia, no? E per una visita piuttosto lunga, 2 giorni e mezzo. Sì, è significativo, ma Rouhani l'ha sempre detto, per noi l'Italia è la porta dell'Europa, è uno dei paesi più importanti. Perché? Non solo perché siamo legati da affari economici nel petrolio dai tempi dell'Eni e di Mattei negli anni 50 e 60, ma anche perché l'Italia è stato uno dei paesi che ha sostenuto comunque l'Iran nella guerra Iran-Iraq e comunque poi ha avuto sempre una posizione diplomatica di grande apertura verso Teheran. Ecco perché l'Italia, oltre che per i legami culturali dei due paesi, è importante per Teheran. E perché Teheran è importante per noi? Teheran è importante per noi perché rappresenta una piazza economica fondamentale. L'Iran è il secondo paese al mondo per riserve di gas, è il quarto produttore di petrolio, adesso ritornerà sui mercati, quindi avrà anche le possibilità economiche di importare, dare commesse importanti. Per noi sono fondamentali le commesse nel settore infrastrutturale, ma anche in tanti altri comparti dell'economia. L'Italia era il secondo partner un tempo dopo la Germania tra i paesi europei e vorrebbe insomma riconquistare posizioni di fronte a una concorrenza comunque che è sempre più agguerrita. Vedremo cosa succederà nel corso di questa visita e che cosa emergerà. Grazie intanto ad Alberto Negri, inviato del Sole 24 Ore. Noi adesso ci fermiamo, ci ritroviamo come sempre per i mercati nella seconda parte della trasmissione. Parleremo anche della vicenda di Torino, della vicenda dell'Audi gialla, quest'Audi gialla in fuga. Sono oggi circolate delle foto di 3 persone, una di queste 3 persone si è presentata oggi a Torino e ha detto: guardate che non sono io, cioè non faccio parte di questa banda. Tra poco. Effetto giorno. Effetto giorno, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. Le notizie in primo piano a partire dalle dichiarazioni del direttore di Europol che dice l'ISIS sta programmando attacchi su larga scala in Europa. Confronto duro tra Germania e Grecia intanto nel vertice nel quale si parlerà anche di Schengen tra i ministri degli interni europei ad Amsterdam. Ed è stato arrestato un cittadino marocchino a Cosenza, secondo gli investigatori sarebbe vicino all'ISIS. Oggi inizia la visita del presidente iraniano in Italia, in gioco accordi commerciali per 17 miliardi. Ritratto nelle foto, ritenuto parte della cosiddetta banda dell'Audi gialla, e si è presentato in questura a Torino e ha detto: non c'entro niente. La protesta all'Ilva di Genova, gli operai occupano lo stabilimento e bloccano una strada. La borsa. Effetto giorno. Ed eccoci di nuovo, effetto giorno, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. Al microfono sempre Simone Spezzi, adesso per una vicenda di cronaca della quale sono stati pieni giornali e telegiornali per giorni, la vicenda dell'Audi gialla con targa svizzera del Ticino che sarebbe in fuga nel nord-est. Sono state diffuse anche delle foto delle persone che sarebbero state a bordo, poi in realtà uno di questi si è presentato e ha detto: guardate, vi siete sbagliati, non sono io. Facciamo il punto con Roberta Pellegata. Roberta. Sì, buongiorno. In effetti le ultime novità sul caso dell'Audi gialla scagionano appunto queste 3 persone che si pensava fossero i bambini, stando alla foto diffusa su media e social network. Questo perché, come dicevi, nella notte di sabato uno degli uomini della fotografia, un albanese di 32 anni, si è presentato spontaneamente in questura a Torino accompagnato da un avvocato dicendo: guardate, io sono quello della foto, ma con l'Audi gialla non c'entro nulla. E l'uomo ha dimostrato, a quanto si sa, la sua estraneità, provando di essere sempre stato a Forlì negli ultimi giorni. E conosce anche gli altri due individui con lui nella fotografia, ma anche loro non c'entrerebbero nulla, perché sarebbero entrambi da tempo in Albania e uno dei due addirittura in carcere, appunto quanto dichiarato da questo albanese sentito in questura, che ora è trattenuto al CIE di Torino perché è risultato privo di permesso di soggiorno. Dunque il mistero dell'Audi gialla si infittisce, al momento non si ha idea di chi siano questi tre uomini a bordo della potentissima macchina, che è una sorta di supercar con la quale beffano la polizia, forzano i posti di blocco, fuggono a 200 all'ora. L'ultima volta che l'Audi gialla è stata vista era sul passante di Mestre, dove sempre per fuggire la polizia ha percorso 5 km in contromano sulla corsia d'emergenza, un comportamento che indirettamente, al dire il vero, ha provocato un incidente, un tamponamento tra un furgone e un'auto in cui una donna è rimasta uccisa. E per il momento è tutto. Grazie Roberta Pellegatta per questo aggiornamento. A chiudere parliamo di politica, perché manca poco ormai al voto per le primarie del PD a Milano. 4 i candidati: Francesca Balzani, per Francesco Maiorino, Antonio Iannetta e l'ex commissario Expo Beppe Sala, che è intervenuto questa mattina ospite di Giovanni Minoli in Mix 24. Sentiamo un passaggio dell'intervista. I miei avversari ne dicono di ogni colore in questo momento. Il punto è, credo di fare abbastanza paura, in particolare al centrodestra. Senta, ma quando Renzi ha ringraziato la Procura di Milano per la sua sensibilità istituzionale, perché l'ha fatto allora? Beh, bisognerebbe chiederlo a lui. Di certo noi non è che non siamo stati controllati dalla Procura di Milano, anzi, per cui direi che sono stati molto tempestivi. Berlusconi in realtà invece dice: Beppe Sala, un uomo di centrodestra, è nostro, altro che PD, me l'ha presentato Bruno Ermolli, è vero? A dire la verità, Bruno Ermolli ha segnalato il mio nome alla Moratti, ma non me l'ha certo presentato. Faceva selezione di classe dirigente Bruno Ermolli per il centrodestra, assolutamente, sicuramente. Sì. Insomma, la vogliono tutti, è bello però essere voluti da tutti, no? Ognuno gli vuol mettere la giacchetta. Ma no. Le mie sistema di relazione è sempre stato nella sinistra. Questo dunque Beppe Sala, e l'intervista poi la trovate ovviamente sul sito www.radio24.it, l'intervista integrale. Adesso ci fermiamo, c'è America 24, ci risentiamo alla fine per i saluti.